I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. Ieri la Camera ha approvato una serie di modifiche al decreto fiscale, modifiche che, tra le altre cose, ampliano ulteriormente i criteri e la modalità della rottamazione delle cartelle esattoriali. Come si ricorderà, si tratta della possibilità di chiudere le pendenze con Equitalia, pendenze che riguardano per esempio tasse o contributi previdenziali o multe stradali non pagate, ottenendo l'azzeramento di alcune voci della cartella stessa, quindi con uno sconto significativo sull'importo da pagare. Con le nuove regole in arrivo, per aderire alla rottamazione ci sarà più tempo. La domanda a Equitalia potrà essere presentata fino al 31 marzo, 2 mesi in più rispetto al termine attuale che era fissato al 23 gennaio. Inoltre ci sarà anche più tempo per dilazionare il pagamento. È previsto infatti che l'importo dovuto potrà essere pagato fino a un massimo di 5 rate, con l'ultima rata che scadrà a settembre del 2018. Poi viene previsto anche che i comuni e le regioni che non riscuotono le loro imposte attraverso Equitalia, si tratta di circa 4.500 tra comuni e regioni, potranno adottare una forma di sanatoria delle sanzioni. Infine, forse la novità più significativa, la rottamazione delle cartelle non riguarderà più solo quelle notificate fino al 31 dicembre dell'anno scorso, ma si estenderà anche a quelle consegnate ai contribuenti durante il 2016, quindi in teoria anche per quelle non ancora consegnate, non ancora arrivate. Siamo in pratica al condono preventivo. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Alessandro Plateroti. Che cosa c'è all'orizzonte dei mercati finanziari? Tra i su e i giù dopo le elezioni di Trump, con il dollaro che cade e poi risale, le azioni che volano e poi riperdono terreno, c'è grande confusione, come vediamo tutti quanti, non solo nella scena politica, ma soprattutto in quella finanziaria. L'unico dato di fatto, per ora, è che i tassi di interesse stanno salendo soprattutto sul rischio di contrapposizioni, di stop sull'aumento dei tassi di interesse, sulla diminuzione del possibile quantitative easing dell'Europa, ma soprattutto sull'incertezza che regna su quali saranno le relazioni internazionali, sul commercio e soprattutto sulle grandi partite finanziarie globali, ovvero le banche. Non è un caso che in questi giorni le banche siano quelle che sembrano aver guadagnato di più da Trump, ma per quale motivo, se è stato lui il grande nemico dei conglomerati finanziari? Perché proprio il rialzo dei tassi di interesse sta beneficiando gli investitori in banche. Le banche da anni ormai sostengono che i tassi di interesse troppo bassi le stanno penalizzando, stanno strozzando sostanzialmente i profitti, ma in realtà qui sembra sempre di più un mors tua vita mea. Se da una parte c'è chi guadagna, dall'altra c'è chi perde e perde dolorosamente. Un po' la morale di questi tempi. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.